fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Mezzanotte 56 di sabato 29 settembre 2018. Buonasera a tutti da Master Nick, benvenuti. Questa è Risto Radio Convento e come sapete il nostro motto è per raccontarsi e per raccontare, che molto semplicemente significa condividere, raccontare le serate e la festa di tutti coloro che scelgono il nostro locale per festeggiare, appunto. E abbiamo l'onore e il piacere di ospitare con noi in apertura di questa serata niente po' di meno che una reginetta, perché è stata eletta, adesso capiremo da chi e come, però ha una coroncina in testa e quindi un titolo lo dovrà avere. Ci facciamo raccontare un po' cosa succede questa sera e come mai è qui. Benvenuta intanto. Ciao, ciao a tutti, sono Desiree. Ciao Desiree. E mi trovo qua per caso, nel senso che... Attenzione, già questo è un programma, si trova qua per caso. Esatto, le mie amiche che sono qua con me mi hanno fatto una sorpresa per il mio addio al nubilato. Ok. E quindi mi hanno portata a Sirmione, alle terme, e adesso mi trovo qua divertita. Infatti vedo che hai tutti i lineamenti rilassati, tutta bella depurata, tutta bella... Abbastanza. Ti vedo tutta serenissima. Esatto. Cioè, allora, ecco, Desiree, per farvi capire, io chiaramente, essendo in radio, non posso raccontarvi la sua espressione, la sua faccia e il suo viso, ma cerco di farvelo capire. Desiree in questo momento potrebbe rimanere in coda a un semaforo rosso almeno per 20 minuti senza arrabbiarsi. Questo è il suo stato d'animo per la pace e la tranquillità che porta nel cuore dopo una giornata di terme a Sirmione. E diciamo che è un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde della tua giornata, perché dopo aver fatto il massimo della tranquillità sei andata all'esatto opposto, quindi, come dire, il sacro e il profano, e sei venuta a divertirti qui. Abbiamo detto il tuo futuro matrimonio, da dove vieni? Vengo da Bergamo. Bergamo città? No, Bergamo, Romano di Lombardia. Romano di Lombardia, è giusto anche ricordare le piccole cittadine e province, anche se Romano non è che così piccola lo sia. E ti sposi quando e con chi? Mi sposo il 27 ottobre con Renato. Oh, bene, bene, raccontaci un po', se ti va, la tua storia, nel senso, come è avvenuto il vostro incontro, cosa vi ha fatti conoscere, cosa vi ha fatti unire, interessare, dici un po'. Allora, io e Renato ci siamo conosciuti 10 anni fa, quando avevo appena iniziato il primo anno di università, e ci siamo conosciuti tramite amici. Abbiamo iniziato a uscire, amici in comune, abbiamo iniziato a uscire. Che è ancora il grande classico nel 2018, esatto. Nonostante tutto gli amici in comune rimangono ai primi posti nel conoscere, nel potersi conoscere reciprocamente. E niente, diciamo che la nostra storia è nata piano piano, nel senso che man mano che ci conoscevamo ci siamo innamorati. E adesso quindi niente colpo di fulmine, una cosa che si è costruita col tempo. Piano piano. Ok. Ovviamente ci sono stati alti e bassi, però adesso eccoci qua e conviviamo da 4 anni adesso. Ah, già convivete, quindi già diciamo che un mattoncino l'avevate, sì. L'avevate già messo su. Esatto. Mancava il finale, ecco, diciamo, esatto. Così, la ciliegina sulla torta. Bene, bene, e come mai questa coroncina? C'è un motivo particolare, un soprannome, un oggetto dovrei che... chiedere alle mie amiche. Non lo so, magari, che ne so, le tue amiche ti chiamano Reginetta, ti conoscono come principessa, no? Non so perché me l'abbiano messa in testa. Non so, chiediamo ai colpevoli. Futura sposa, ok, no, perché magari, che ne so, ripeto, un soprannome, un passato. Ok, a proposito di amiche, approfittiamo, ne dici un po' chi ti accompagna, chi è qui con te, se vuoi presentarcele. Allora, tu, sì. Da buona padrona di casa. Allora, in prima linea c'è Eleonora. Addirittura in prima linea, sembra la formazione di pallavolo. Italia. Mamma mia, sembra veramente la formazione di pallavolo. Ci siamo conosciute all'università circa 10 anni fa. Poi c'è la mia amica d'infanzia Giusy, e la conosco da quasi 20 anni. Poi Sami, ci siamo conosciute le superiori, anche lei la conosco da più o meno 15 anni. E poi c'è Marina, la new entry, che ho conosciuto quest'anno al lavoro e sono contenta di averla conosciuta. Oh, bello, bello. Bene che una new... Eh sì, vabbè, una bella Macedonia, mi piace, mi piace. E no, mi fa piacere che una persona conosciuta quest'anno da poco sia già presente a un avvenimento così importante. Ecco, insomma, vuol dire che, come dire, al di là dei rapporti lunghi, dei rapporti di vecchia data, si possono anche costruire cose belle con persone nuove. È sempre bello, dai. Raccontare anche queste belle amicizie, questi bei sentimenti tra queste ragazze. Sì, non vi preoccupate di quello che succede fuori, è un altro mondo, noi cerchiamo di rimanere connessi un po' dappertutto, ma è un po' confusionario e lo capisco bene. E cosa avete già in programma qualcosa di particolare per il matrimonio, un viaggio particolare, un viaggio che sognavi da tempo? Sì, abbiamo deciso di andare in Giappone. Ah, strano, posso dirti strano? Perché? Perché di solito o si sceglie... No, o si sceglie l'America come città, chiamiamola così, come zona, oppure il mare, esatto. Il Giappone l'ho sentito poche volte. Perché alla fine riteniamo che sia una cultura un po' particolare, molto diversa dalla nostra. Certo. Quindi con il matrimonio abbiamo preso un po' l'occasione per andare. Sì, diciamo che il matrimonio è quella possibilità di fare quel viaggio che hai sempre sognato e che magari non potresti fare per nel resto della tua vita, ecco, comunemente, quotidianamente. Quindi non l'avete fatto bene, però ti dico che non è una meta gettonatissima. Esatto, quindi speriamo non ci siano terremoti. Madonna, non mi partire così, perché sennò dopo che ho scelto alluvione e terremoto. Madonna mia, non mi partire così, perché sennò ti porti la conosci la legge di Murphy, la cabala addosso. Ecco, bene bene, dai, viaggio in Giappone, quanto starete via? 12 giorni, una roba giusta. Giusta, avete già un programma di massima? Sì, giriamo 9 città in 12 giorni. Ma no, sembra il titolo di un programma di Real Time, già fatto e finito. 9 città, aspetta, 9 città in 12 giorni su Real Time con Desiree. E già, vedi, hai già un promo fatto e finito, potresti venderlo a Fox che te lo compra sicuro. Che cosa avete scelto? Allora abbiamo scelto Tokyo, Osaka, Kyoto, Nara, Nikko, poi ci sono due città che non mi ricordo il nome. Ma hanno una K di mezzo sicuramente, da quello che hai detto. Poi esatto. Kanazawa e poi Osaka. Che hai già detto. Ah, ok. Vabbè, comunque diciamo che c'è qualcosa con la K. E quindi sushi a gogo e già. Bello, bello, bravi, bravi, bella scelta. Allora, vuoi dire qualcosa? Vuoi approfittare del microfono per mandare un messaggio, ringraziare qualcuno? Non lo so. Certo, ringrazio innanzitutto le mie amiche che mi hanno regalato questa splendida giornata e serata. E poi ringrazio tutti quelli che parteciperanno al mio matrimonio, che lo renderanno un evento speciale. Bello, bello, mi piace questa Desiree sicura di sé. E no, è vero, dai una impressione di sicurezza, consapevolezza. Brava, brava. Complimenti. Grazie anche alle amiche ovviamente che l'hanno portata da noi, hanno permesso di conoscerla meglio e vi auguriamo una buona serata, un buon divertimento, perché non è ancora finita, avete ancora possibilità di ballare e divertirvi un po' se vi va. Intanto grazie e ancora auguri a Desiree. A grazie. Presto!